Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buon inizio settimana a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Noi per la verità questa mattina l'abbiamo cominciata in maniera un po' più tesa, monitorando i mercati, perché la settimana si è aperta con nuove tensioni che adesso stanno tentando per la verità di scomparire dal mercato azionario, perché la situazione sta migliorando. Probabilmente anche queste indiscrezioni sulle possibili imminenti dimissioni di Berlusconi hanno fatto bene soprattutto, vi dicevo, la borsa, perché il FTSE MIB fino a 10 secondi fa aveva una fiammata, un rialzo del 3%, adesso è a più 2,25, stanno riprendendo a correre tutti i titoli del settore bancario, i titoli industriali, ma soprattutto c'è un sospiro di sollievo proprio appunto per il settore bancario. Le altre piazze europee sono più indecise, ma anche queste perdevano tra il punto e mezzo fino a mezz'ora fa, adesso hanno sensibilmente tutte ridotto i loro cali. Parigi meno 0,2, Francoforte meno 0,15, Londra rimane ancora in calo di un punto, ma soprattutto il grande osservato speciale delle ultime settimane, il famigerato, ormai è entrato praticamente nelle abitudini e nel gergo anche familiare di tutti noi, chi la mattina non si alza cercando di interrogarsi su che cosa farà lo spread nel corso della giornata. Anche stamattina il differenziale di rendimento fra il titolo decennale italiano e quello tedesco ha ritoccato l'ennesimo record storico, 491 punti base, il 6,6% di rendimento del titolo decennale appunto sul mercato secondario. Adesso si è un po' raffreddata anche la tensione su questo versante, ma siamo sempre sui 480 punti. Probabilmente il mercato obbligazionario vuole una schiarita molto seria e molto chiara sul versante politico. Detto questo, a parte la borsa, che naturalmente controlleremo soprattutto se arriveranno novità politiche, di che cosa parliamo oggi? Di un tema non tanto più piacevole, anzi, perché dicembre si avvicina e per tanti arriverà anche un po' di respiro nel portafoglio con la tredicesima, però a precedere c'è il mese, quello che stiamo vivendo adesso, che ci porta invece qualche grattacapo in più. È un mese meno generoso perché si presenta un periodo particolarmente severo per quanto riguarda le incombenze del fisco. Novembre è ricco di scadenze, a partire dall'IRPEF. A fine mese scade il termine per versare l'acconto dovuto per l'anno in corso per quanto riguarda l'imposta sulle persone fisiche. Sono poi chiamate all'appello anche le imprese, i professionisti cui spetta il pagamento di IRAS e IRAP. C'è anche la debuttante, cedolare secca sugli affitti: entro il 30 bisogna mettersi in regola con il pagamento della seconda rata e fare i conti con i redditi percepiti dai contratti d'affitto. Insomma, è un quadro complesso, un calendario ricco di appuntamenti da rispettare. Nell'osservare gli adempimenti di novembre non va dimenticato che il 27 di dicembre scade invece, così ce lo ricordiamo in tempo, l'acconto IVA di quest'anno, nel quale inciderà l'aumento dal 20 al 21% dell'aliquota introdotto dallo scorso settembre, da metà settembre. Allora, perché ho ricordato tutte queste date? Perché questo è l'argomento al centro stamattina della guida del Sole 24 Ore nell'acconto d'imposta, l'appuntamento con il prelievo di novembre, la consueta guida del lunedì che dà l'opportunità ai lettori del Sole 24 Ore di inviare i propri quesiti ad un pool di esperti che il Sole ha messo a disposizione, e con la consueta modalità poi naturalmente tutti avranno la facoltà di ottenere una risposta che sarà pubblicata domani sul Sole 24 Ore, ma appunto la modalità in realtà di interazione con i lettori è piuttosto articolata e ricca. Adesso vi torneremo appunto a rispiegarvela. Con noi questa mattina Giovanni Parenti, il Sole 24 Ore. Ciao Giovanni, bentornato. Grazie, buongiorno a tutti. Bentornato anche a Cristiano Dell'Oste. Buongiorno. Che hanno, come dire, procreato sin dall'inizio e partorito questa guida. E poi naturalmente abbiamo anche l'esperto fiscale, non potevamo farcelo mancare, anche se Giovanni e Cristiano sono bravissimi, Luca De Stefani. Buongiorno e bentornato. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, se non avete chiaro il quadro dei vostri adempimenti fiscali di questo mese, chiamateci all'800240024 oppure scriveteci al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Allora, cominciamo subito a fare il punto della situazione. Giovanni, parto con te, magari raccontiamo ancora una volta come funziona la possibilità per i lettori del Sole 24 Ore di interagire con il quotidiano, qual è il sito a cui collegarsi per poter inviare i quesiti e raccontaci tutto. www.ilsole24ore.com/acconti-imposta. Da qui potete entrare, oggi potrete inviare i vostri quesiti fino alle 18, domani ci sarà una prima selezione delle risposte sul quotidiano in edicola e poi nei giorni successivi saranno pubblicati sul sito internet. Su quali temi possono rivolgere dei quesiti i lettori? Su tutti i temi della guida, quindi a partire dalla cedolare secca agli acconti IRPEF, IRAP, IRES e poi l'IVA, che però ricordiamolo Deborah ha una scadenza posticipata al 27 dicembre. A 27 dicembre, però siccome quest'anno appunto c'è la variazione dell'aliquota, magari è bene prendere per tempo anche coscienza del fatto che c'è questa novità, se a qualcuno fosse sfuggita, ma non credo. La grande novità però dell'anno, quella sulla quale probabilmente si sono puntati un bel po' i riflettori negli ultimi mesi, Cristiano Dell'Osso è stata la debuttante, l'abbiamo chiamata, al ballo delle tasse, ha partecipato quest'anno anche alla cedolare secca sugli affitti. Vogliamo un po' ricordare la genesi di questa novità importante? Certo, la cedolare è stata prevista dal decreto sul fisco municipale, vale da quest'anno, quindi si applica sui redditi da affitto incassati a partire dal 1 gennaio 2011 e ricordiamolo è una facoltà, non è un obbligo, quindi ogni proprietario di casa concessa in affitto deve decidere se vuole optare per il regime della cedolare secca oppure restare con l'IRPEF tradizionale. Il regime della cedolare secca consiste nella possibilità di pagare sull'affitto incassato soltanto il 21% di imposte senza addizionale comunale regionale, senza imposta di registro. 21% è l'aliquota che si applica quasi sempre quindi si applica sui contratti liberi. Se invece però il proprietario avesse fatto un contratto convenzionato, allora in questo caso l'aliquota scende al 19%. C'era un primo appuntamento con il primo acconto che era quello del 6 luglio, adesso entro il 30 di novembre va versata la seconda rata dell'acconto che è pari al 60% dell'acconto dovuto su tutto il 2011. L'acconto è a sua volta l'85% dell'imposta dovuta nel 2011. Il Sole 24 Ore, lo ricordiamo, Cristiano, ha calcolato che la platea dei contribuenti interessati, cioè dei proprietari di abitazioni concessi in locazione, sono circa 2 milioni. Esatto. È chiaramente abbastanza prematuro stabilire chi abbia optato per un regime fiscale piuttosto che un altro. Guarda, per sapere questo dovremmo attendere le statistiche ufficiali dell'Agenzia delle Entrate. C'era stato un sondaggio che aveva fatto il franchising Solo Affitti, che è un franchising di agenzie specializzate nella locazione. Sì, sì, l'abbiamo anche spesso noi a Salvadanai. Ecco, l'avevano diffuso ad agosto questo dato, quindi è un po' datato, e diceva sostanzialmente che circa metà dei loro clienti, dei proprietari loro clienti, avevano optato per la cedolare. Noi avevamo fatto delle stime, diciamo basandoci sui redditi medi dichiarati, e sulla base di questi calcoli veniva fuori che più o meno la cedolare conveniva in 2 casi su 3. Poi vedremo quale sarà insomma l'adesione vera dei proprietari. Giovanni Parente, aiutami invece a dipanare la matassa dell'IRPEF, è tanto complicata, che cosa devono fare i contribuenti per regolarizzare il mese di novembre dal punto di vista di questa scadenza? Allora è molto semplice, questo è soltanto un adempimento di pagamento, bisogna pagare, basta. Punto e basta. Cioè, naturalmente ci sono alcuni soggetti che sono esclusi, ad esempio chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi perché è incapiente ad esempio, oppure chi non ha debiti con il fisco. Entro fine mese non deve pagare anche chi ha evidenziato in dichiarazione dei redditi un'imposta inferiore a 51,65 euro. In tutti gli altri casi, stiamo parlando soprattutto di soggetti che si riferiscono a unico, che hanno presentato la dichiarazione dei redditi unico, va versata la seconda parte delle tasse dovute sostanzialmente. Perché chi ha fatto il 730, che cosa è cambiato? 730 sostanzialmente viene trattenuto in busta paga dal proprio datore di lavoro, che è il sostituto d'imposta in questo caso. E chi invece ha unico deve recarsi alla cassa, pagare con un modello F24 presso le banche, gli uffici postali o attraverso gli intermediari abilitati. Ecco, l'IRPEF che si paga adesso a fine novembre, se non mi ricordo male, non ha la possibilità di essere rateizzata come succede invece per luglio. Esatto, in questo caso è esclusa la rateazione, bisogna pagare l'intero importo. L'intero importo, Cristiano Dell'Osso. E questo anche per la cedolare, lo ricordiamo perché le regole sono in parallelo. Quindi non può essere rateizzata, invece l'acconto di luglio poteva essere rateizzato. Esatto. Benissimo. Luca De Stefani, naturalmente faccio fare un piccolo blitz prima della nostra prima pausa anche a lei. Quali sono in questo momento, tra tutti gli adempimenti fiscali che ci sono, che devono essere regolarizzati entro la fine del mese? Noi ne abbiamo citati solo due, l'IRPEF, la cedolare secca, ma dicevamo anche in apertura c'è l'IRAP per le imprese, l'IRES per i professionisti, appunto quelle che stanno dando un pochino di più grattacapi ai contribuenti, nel senso che per esempio la debuttante, la cedolare secca, è quella che ha generato un po' più di confusione? Sì, sicuramente. sicuramente la cedolare secca, ma anche le novità relative all'aumento dell'IVA, soprattutto per capire le modalità di momento impositivo che si distingue tra prestazioni di servizi e cessione di beni. Per la cessione di beni vale la cessione e il momento della consegna, mentre per la prestazione di servizi il pagamento finale. E questo incide anche sugli acconti, perché ecco, per gli acconti IVA che scadono il 27 dicembre, l'aumento dell'IVA inciderà per chi applica il metodo previsionale oppure quello delle operazioni effettuate al 20 di dicembre. Mentre se applico il criterio storico, quindi applico la base imponibile che ho avuto l'IVA che dovevo versare nell'ultimo trimestre dello scorso anno, l'aumento dell'IVA al 21% sicuramente non influenza sull'importo dell'acconto da pagare il 27 dicembre. Allora, come già immaginavo, il tema della cedolare secca sta già risultando tra i temi più gettonati anche da parte degli ascoltatori, appunto, che si stanno rivolgendo a noi, sia all'800240024, ma anche al 349-238-6666. E per esempio vedo una domanda appunto di un ascoltatore che ci chiede: ma allora il saldo della cedolare secca quando andrà versato, Cristiano? E andrà versato nel 2012, l'anno prossimo, quindi quella fettina di 15% di imposta dovuta che non va in acconto appunto si verserà a saldo l'anno prossimo. Tra l'altro il meccanismo della cedolare è stato introdotto in qualche maniera anche per consentire un'emersione dal nero di tutti quei contratti, Cristiano, non regolarizzati, ed effettivamente l'applicazione della cedolare ha portato anche ad un ruolo attivo degli inquilini delle abitazioni. Questa è la grande scommessa della cedolare secca, che di per sé comporta meno tasse per chi già era in regola, quasi sempre, diciamo, non sempre, perché abbiamo detto in circa un caso su tre potrebbe non convenire, però soprattutto perché il fisco, lo Stato, non ci rimetta denaro in questa operazione, è importante che emergano gli affitti in nero. Noi anche qui non sappiamo come sta andando l'operazione. Certo, la legge ha previsto anche la possibilità per l'inquilino di denunciare il proprietario, avendo poi in premio, diciamo così, un canone super scontato per 4 anni rinnovabili di altri 4. Allora, io tra l'altro mi stavo interrogando adesso, nel momento in cui il mercato azionario ed obbligazionario ragiona tanto sullo stallo politico, detto questo, a meno che questa situazione si risolverà probabilmente nelle prossime ore, io dico quantomeno in pochissimi giorni, ma non è che poi dall'anno prossimo, Giovanni Parente, tutte queste, come dire, questioni fiscali verranno drasticamente rivoluzionate? Che cosa è possibile prevedere per l'anno prossimo in termini di tasse nuove, vecchie, riproposte? Allora, molte norme che sono state varate con la manovra estiva di fatto andranno a regime dal prossimo anno. Lo scriviamo anche noi oggi, riguardano soprattutto le imprese, le società che pagano l'IRES. In questo caso però mi sento di dare un messaggio: non impattano sull'acconto che va versato entro fine mese, tranne in una ristretta categoria, insomma, che sono i gestori autostradali che potranno dedurre un po' di meno rispetto alle spese effettuate, però insomma il grosso delle norme entrerà in vigore dal prossimo anno. Penso ad esempio alle società in perdita o ad altri casi che sono legati ad esempio all'altra scadenza di fine mese per chiudere le vecchie liti con il fisco. Quello che in qualche modo può impattare da subito sono alcuni aumenti dell'IRAP che sono stati disposti alla prima manovra estiva, ma anche in questo caso, è bene precisarlo, riguardano settori molto limitati. Stiamo parlando delle banche, delle assicurazioni, delle società di investimento. Il grande tema dell'IRAP riguarda soprattutto tante piccole, medie imprese, tanti professionisti, e quello dell'esenzione dal tributo. La giurisprudenza, la Cassazione in primo luogo, sta allargando l'area dei soggetti che non devono versare, perché mancano i requisiti, quelli che vengono chiamati di autonoma organizzazione, vale a dire non c'è una responsabilità altrui, non ci sono dipendenti impiegati in forma stabile, non c'è una dotazione di strumenti, di capitale utilizzata oltre a quella mirata per l'esercizio dell'attività. In questo caso diciamo che la scelta di fine mese, cioè pagare o meno l'acconto, è figlia di quello che si è deciso di fare a giugno-luglio. Se in quel caso si è ritenuto di essere fuori dal perimetro dell'imposta, non si verserà neanche il secondo l'acconto di fine novembre. Nel caso in cui uno abbia scelto una strada un po' più prudenziale e ritenga poi di aver avuto ragione, può chiedere sempre rimborso. Se gli viene negato, fa ricorso. Allora, mese di novembre è cominciato malissimo per quello che riguarda i mercati, non è che finirà meglio per molti di noi perché dobbiamo rispettare molte scadenze fiscali questo mese, però consoliamoci perché a dicembre arriva la tredicesima. Cosa sta succedendo col microfono? C'è Cristiano Dell'Oste che giocherella e adesso gli diamo una bella botta sulle mani, così sta fermo. Detto questo, appunto, oggi in collaborazione con la guida del Sole 24 Ore vi raccontiamo e vi ricordiamo quantomeno quali sono gli acconti d'imposta da versare entro la fine del mese. C'è l'IRPEF, c'è l'IRAS, c'è l'IRES, l'IRAP e c'è anche la cedolare appunto sugli affitti. Questa è stata la grande novità di quest'anno che ha generato molti quesiti per diverse migliaia di contribuenti, perché si calcola appunto, come dicevamo prima con Cristiano Dell'Oste e con i nostri colleghi di questa mattina, che sono almeno 2 milioni i contribuenti interessati all'adempimento, visto che sono almeno questi i proprietari di abitazioni concesse in locazione, che possono scegliere appunto per questa tassa secca, chiamiamola così, oppure mantenere il vecchio regime, il vecchio sistema che sommava IRPEF, imposta di registro ed altre ancora. Allora, tutte le vostre domande sui temi di questa mattina, anche se vedo che naturalmente piace molto il tema della cedolare. Cominciamo a sentire Marco da Milano, che avevo preannunciato prima all'800240024. Marco, buongiorno, buona giornata. Sì, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. La domanda è questa: a maggio in sede di IRPEF mi è stato conteggiato un tot di anticipo su tasse da versare, diciamo, a novembre. Poi a settembre un acconto. Poi a settembre ho optato per la cedolare secca, in quanto ho una proprietà in affitto, e mi è stato conteggiato un altro conto più o meno gli stessi importi. Devo versarli tutte e due o devo versare solo la cedolare secca? Grazie, vi ascolto. No, ma non ho capito, Marco, aspetti lì che magari sono io che non ho capito, perché vedo che Cristiano Dell'Oste annuiva. Mi sono rivolto a un professionista. Quindi a maggio gli ha fatto un calcolo e a settembre un altro. A maggio mi ha detto a maggio mi ha fatto il 740 e quindi sul 740 mi ha calcolato un acconto da versare a novembre, 740, sul quale era incluso anche il reddito derivante dall'affitto. Aspetti un po' lì, Marco, che Cristiano le fa una domanda. Volevo solo capire perché ha optato a settembre per la cedolare, perché è un contratto nuovo? Perché è un contratto, il contratto praticamente era datato come partenza il 16 di settembre, quindi ai primi di settembre mi ha detto di... Ma era datato, ma era già stato stipulato l'anno scorso? Il rinnovo è stato rinnovato l'anno scorso. Questo sarebbe stato il secondo anno dei quattro di rinnovo. Ho capito. Ma allora, diciamo che in generale il problema che ha avuto l'ascoltatore si può verificare, si è verificato in molti casi. Perché cosa succede? Succede che siccome l'acconto IRPEF viene calcolato abitualmente con il metodo storico, se io l'anno scorso avevo una casa data in locazione sulla quale appunto percepivo un affitto e su cui pagavo l'IRPEF, quest'anno, non dicendo nulla al CAF o al commercialista, mi veniva calcolato l'acconto IRPEF sulla base del reddito dell'anno scorso. Dopodiché, su quello stesso reddito che io quest'anno portavo in cedolare, mi trovavo a pagare anche l'acconto della cedolare. Ecco perché le entrate avevano chiarito che era possibile ridurre l'acconto IRPEF così da evitare la duplicazione. Però doveva essere un calcolo piuttosto preciso. Doveva essere un calcolo che ovviamente facevano o il CAF o il commercialista, in modo tale da non versare meno di quanto si sarebbe dovuto. E neanche di più. Chi avesse versato di più, ovviamente, può andare poi a chiedere il rimborso di questa somma. Nel caso specifico, però, mi sembra che ci sia un problema per il nostro ascoltatore, perché se il contratto era già in essere e se quest'anno lui aveva la seconda annualità, quindi non una proroga, lui non teoricamente un più 4, poteva già sapere se optare a maggio. Lui avrebbe già dovuto versare la prima rata. Quindi, non avendo versato la prima rata e presumo non avendo mandato la raccomandata all'inquilino, io credo che sia escluso dalla cedolare. Quindi adesso sentiamo anche magari Luca De Stefani, che cosa ne pensa? Sì, diciamo che il collega, il commercialista del nostro ascoltatore a giugno probabilmente non prevedeva di far fare l'opzione da settembre in poi per la cedolare secca, quindi ha consegnato le deleghe F24 al contribuente considerando l'IRPEF, l'acconto IRPEF calcolato con il metodo storico e quindi considerando che anche per tutto il 2011 ci fosse un reddito da affitto calcolato su cui si paga lì. deciso di fare l'opzione per la cedolare secca e quindi a questo punto è stato calcolato solamente il secondo acconto della cedolare secca, è corretto sia così, perché per i contratti stipulati dopo o comunque per le opzioni effettuate successivamente al primo di giugno è possibile versare solamente il secondo acconto. Anche se si trattava di un contratto già in essere da un anno, in questo caso il 16 settembre scattava praticamente il rinnovo dopo il primo anno? Sì, comunque. Comunque era così. Cristiano, sì. Sì, no, allora è giusto. In questo caso ovviamente porterà in cedolare il reddito incassato dal 16 di settembre in poi, credo, sì. e non il reddito incassato dal 1 gennaio al 15 di settembre. Che esatto. Va ricalcolato quindi però per l'anno prossimo. Che andrà in IRPEF e sul quale, che andrà in IRPEF per quest'anno ovviamente, per l'anno 2011 e sul quale continuerà a pagare l'acconto e probabilmente l'avrà anche pagato giusto. Cristiano, quando, io adesso mi dispiace che non riesco a far intervenire Giovanni, ma appunto immaginavamo che tra l'altro il tema della cedolare fosse in assoluto stamattina la questione più gettonata da parte degli ascoltatori. Come si fa ad effettuare un calcolo di convenienza per capire se è meglio optare, anche se avremmo dovuto già farla dal momento in cui la legge l'abbiamo avuta a disposizione nel nostro ordinamento, vale a dire dal 7 aprile scorso, se vale la pena di più optare appunto per il regime della cedolare secca o per mantenere il regime tradizionale? Noi abbiamo sul sito del Sole 24 Ore un simulatore che consente di fare un calcolo semplificato. Diciamo che le variabili da tenere in conto sono innanzitutto confrontare l'aliquota. Noi sappiamo che l'IRPEF marginale va dal 23 al 43%, la cedolare invece ha l'aliquota al 21%. Però attenzione, il 21% della cedolare o 19% per i canoni concordati lo si paga su tutto l'importo dell'affitto, quindi senza quelle deduzioni forfettarie che invece vengono riconosciute a chi paga l'IRPEF. Questa è una prima variabile importante. Poi bisogna tenere conto del fatto che sulla cedolare secca, sull'affitto sottoposto alla cedolare secca, non si pagano le addizionali comunali e regionali, e questa è una bella variabile perché ci sono grandi differenze territoriali. Certo. Ad esempio a Roma la combinazione tra addizionali regionali e comunali è molto più alta che a Milano. E poi l'ultima variabile è che non si paga, se si fa la cedolare, l'imposta di registro, che è per il proprietario, di solito si divide a metà, quindi è il 2%, di cui l'1% a carico del proprietario, e in più, questa è una spesa piccola ma va comunque considerata, non si paga neanche il bollo. Quindi bisogna mettere insieme tutte queste variabili e vedere se conviene la cedolare o se conviene invece stare in IRPEF. Diciamo che in linea di principio, per i contribuenti che stanno nel primo scaglione di reddito, quindi che pagano l'IRPEF al 23%, la cedolare non conviene. Da lì in poi dovrebbe essere conveniente, fatti salvi una serie di altri casi, come ad esempio la presenza di detrazioni del 36 o del 55%. Mi hai fornito un assist per fare una domanda a Giovanni Parente, perché sennò stava lì anche annoiandosi un po'. Ha citato Cristiano Dell'Oste il primo scaglione di reddito appunto al quale applicare la prima aliquota IRPEF al 23%, ma se io ti richiedo di rifarci un attimo il punto della situazione sui vari scaglioni aliquote applicate. Sì, diciamo che sono. Sei pronto? Sì, abbastanza. No, beh, sono essenzialmente quello del 23 e quello del 27, quello del 33 e quello del 43%. Però attenzione, adesso mica è così lineare e semplice, infatti. No, perché ovviamente poi è tutto commisurato alla parte eccedente di reddito in ogni caso, e a questo in questo senso mi vale la pena anche ricordare che c'è che la manovra di luglio, la manovra di Ferragosto ha introdotto anche il contributo di solidarietà che è del 3% per i redditi con superiori a 300.000 euro. Naturalmente in questo caso si tratta di redditi molto alti, quindi non stiamo parlando di ascoltatori che hanno redditi bassi, e quindi si tratterà poi di fare i conti con il fisco già dall'anno prossimo. Tra l'altro, Giovanni, quando è stato versato o deve ancora essere versato questo contributo di solidarietà? Deve essere ancora prelevato da questi redditi alti? Mi pare che sia stato in settembre. Esatto. Il prelievo, no? Esatto, sostanzialmente il prelievo in parte avverrà già nei primi acconti di fine novembre, ma perché la norma è entrata in vigore già dal 2011. Stiamo parlando di 33.000 contribuenti in tutta Italia, insomma siamo un numero veramente molto ridotto, e il gettito altrettanto ridotto è il gettito che viene da questa misura, che è stata puramente meramente simbolica. Allora, Milano più 2,55%, lo spread è calato vistosamente a 470 punti base sulle voci delle dimissioni di Berlusconi, ma che il Presidente del Consiglio si dimetta o no nelle prossime ore nulla cambia per i contribuenti che entro la fine del mese devono versare tutti gli acconti d'imposta, l'IRPEF, la cedolare secca e tanto altro ancora. Allora, se non avete le idee chiare, datevi un'occhiata alla guida del Sole 24 Ore che esce oggi. Se volete fare delle domande potete collegarvi al sito www.ilsole24ore.com/@ acconti-imposta, inviate i vostri quesiti al pool di esperti che il Sole mette a disposizione. Da domani le risposte sul quotidiano e poi naturalmente c'è anche un dossier online molto articolato. Molti degli esperti che rispondono sono anche stamattina con noi. C'è Luca De Stefani, dottore commercialista, esperto di questioni fiscali per il quotidiano, e poi colleghi autorevolissimi Giovanni Parente e Cristiano Dell'Oste, che ormai sul tema delle tasse sanno tutto, è un incubo davvero per loro. Ma a parte gli scherzi, sentiamo Roberto da Piacenza. Buongiorno Roberto, che prima ci ha scritto una mail e poi lo abbiamo subito recuperato perché ci sembrava una domanda interessante. Roberto. Sì, buongiorno. No, la mia domanda era, io ho in affitto un locale commerciale, quindi già non so se posso o meno passare alla cedolare secca. Già le dobbiamo dire di no subito. No? No, è rimasto male Roberto? No, poi la domanda era... praticamente ce l'ho a metà con mio padre, questo mi alza il reddito a me, quindi pago l'IRPEF sul reddito complessivo, però ovviamente tutto questo mi comporta anche una diminuzione degli assegni familiari. Certo. Per intendere. Quindi a questo punto il problema non mi si pone più, perché è un locale commerciale. Però, infatti, l'abbiamo smontata subito Roberto. Sì. Però lei dice insomma è frustrante quella, perché sì, se comunque mi faccio confortare da Luca De Stefani. Sì, non è possibile perché un locale commerciale non si può optare per la cedolare secca, è possibile fare l'opzione per la cedolare secca solamente per le abitazioni e comunque tra privati, tra soggetti privati, quindi non è possibile. E infatti è comunque per poter ripristinare magari degli assegni familiari un po' più decenti, non so, deve De Stefani qui. Che non cosa... è possibile. No, infatti non passando attraverso questo reddito appunto naturalmente. Allora andiamo a Franco da Trento. Franco. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, tendo di essere telegrafico. Grazie. Fitto di 950 lire e 950 euro mensili. Sì. Che era in corso di validità perché è del maggio 2009, era 4 anni a regime libero. A luglio ho pagato l'anticipo del 40% sull'85%. Sì. Giusto? Sì. Attualmente, adesso, entro il 30 novembre, e devo pagare la differenza sul 100% dell'affitto o tenendo conto dell'85% che... Sì, è chiara la domanda. Grazie Fran, sì, abbiamo capito. Cristiano Dell'Oste. Allora, facciamo un passettino indietro così ricapitoliamo bene la regola. Fatto 100 l'affitto, che si percepisce in tutto il 2011, l'acconto è 85, la prima rata è il 40% di questo 85 e la seconda rata è il 60% sempre dell'85, perché il restante 15 viene poi versato a saldo. Praticamente l'80 si chiama l'acconto e quindi è chiaro che ha una percentuale inferiore alla totalità. Certo, esatto. Sì, lo dice il nome stesso. Poi tra l'altro, adesso non vorrei confondere le idee, ma possiamo anche ricordare che l'anno prossimo, quindi nel 2012, l'acconto poi salirà, non sarà più l'85% del totale, ma diventerà il 95%. Ah, ecco, grazie per averci dato questa notizia. Si avvicinerà, diciamo, al 100%. Secondo te questo porterà a qualche riorganizzazione delle decisioni di un regime piuttosto che di un altro? Non dovrebbe influenzare la convenienza. Allora, tra l'altro, a proposito della convenienza, visto che il nostro ascoltatore ci chiamava da Trento, ribadiamo anche il fatto, ma forse l'hai già fatto prima, di quando conviene appunto optare per un regime piuttosto che di un altro. Perché è tanto importante anche capire il luogo in cui si abita, Cristiano? Perché sul reddito sottoposto alla cedolare, quindi sull'affitto che si viene a incassare, se si sceglie la cedolare non si pagano le addizionali comunali e regionali. Quindi se il nostro comune ha delle addizionali molto alte e le ha anche la regione, allora a quel punto la convenienza della cedolare aumenta. Michele da Foggia, buongiorno. Buongiorno, aspetta. Sì. Volevo avere una spiegazione. Abbiamo affittato l'appartamento dal 1 di novembre con la cedolare secca. Volevo sapere se dovevamo pagare un acconto o qualcosa entro la fine dell'anno. Allora, qua forse Michele non deve pagare nulla. Esatto, questo è uno dei casi in cui l'acconto per il 2011 non va pagato per gli affitti che iniziano dal 1 novembre in poi, proprio perché appunto la scadenza è il 30, quindi c'è questa semplificazione, pagherà la cedolare secca nel 2012. Mm-hmm. La stessa regola vale anche per quegli affitti, sono pochissimi ovviamente, in cui l'imposta dovuta per tutto il 2011 è meno di 51,65 euro. Anche in questo caso, anche se l'affitto fosse cominciato prima, pensiamo magari a una casa che è rimasta affittata poche settimane, insomma, quindi ipotesi piuttosto residuali, comunque se l'imposta dovuta è inferiore a 51,65 euro, si paga tutto nel 2012. Giovanni Parente, ti faccio una domanda che non c'entra nulla con la sostanza, ma un po' con la forma. Perché la chiamano la tassa piatta? Perché sostanzialmente è una, come dire, è una tassa unica su che viene, che viene pagata sull'intero ammontare delle, dei canoni di locazione. Una gradualità dell'imposta come lo scaglione, per esempio, esatto. IRPEF sul reddito. Una agli scalini, l'altra piatta. Allora sì, ridiamo un po', ma c'è poco da ridere. Forse ce la faccio a fare l'ultima domanda di oggi e la assegno a Giuditta da Milano. Rapidissima, Giuditta, grazie, perché devo chiudere. Niente, è questo, io ho un appartamento in affitto con una società, quindi mi avevano detto che non posso aderire alla, alla cedolare secca. Eh sì, l'abbiamo spiegato. Ma perché anche... se, c'è la, se questa legge è stata fatta per fare convenienza a chi affitta? Perché è stata fatta per tirar fuori un po' dal nero tutti gli inquilini che pagano in nero, appunto, la posso dire così brutalmente, Cristiano dell'Oste. Sì, è una scelta criticabile, ma una scelta che è stata fatta insomma in sede di definizione delle regole generali. Infatti, come per tante cose, insomma, questa è chiara fin dall'inizio, poi magari ci ripenseranno, però non credo che sia così. Grazie, abbiamo terminato la trasmissione, insomma, per tutti i quesiti rimasti in sospeso saranno centinaia di migliaia, vi invito a riprendervi, vi invito appunto a prendere la guida in edicola oggi con il Sole 24 Ore su tutti i segreti dell'acconto d'imposta con cui ci dobbiamo mettere in regola entro la fine del mese. Grazie a tutti per essere stati con noi, a Cristiano Dell'Oste, a Giovanni Parente, a Luca De Stefani e Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, Fabio Cantadoni in assistenza tecnica. Guarda come chiudo in tempo oggi, Fabio, sono brava. A domani, buona giornata a tutti.